E torniamo allora alle due comunicazioni di Italo De Sandro, Università di Padova, e di Gianni Ambrogio, Facoltà Teologica di Milano. Passaggio verso il futuro, complessità e comunicazione dal punto di vista sociologico. E poi invece un'indagine sugli scenari futurologici presenti nei sinodi, nei documenti sinodali della Chiesa Cattolica. Sono o no scientifici? Sono o no oggettivi? Sono accomodati? Sentiremo anche le esigenze di attenzione che si propone la sociologia, poi vedremo come la Chiesa eventualmente nella sua pastorale ha tenuto presente di questa relazione. Allora, avete i testi nella cartella, abbastanza completo quello di De Sandre. No, non è completo. Sono uno schema. Comunque è uno schema. Allora, professor De Sandre. Comunque non è importante seguire lo schema, è importante seguire alcuni nodi che cercherò di dire e che in qualche modo si sono sovraffollati. Ieri sera ho avuto modo di leggere la relazione di Pierpaolo Donati, stamattina di ascoltare Dianic e poi il professor Ardigo e anche gli altri interventi, tutti contributi che hanno portato, arricchito la densità dei problemi di oggi. Io ho cercato, tra parentesi, io non sono la sociologia, Don Sartori ama presentare a ciascuno di noi come la teologia, la sociologia, eccetera. Io sono un sociologo che cerca di parlare con un certo linguaggio e di argomentare in un certo modo, e questo è importante, credo, perché segna il limite, ma anche segna le possibilità che ciascuno di noi ha di dare delle sottolineature a quello che analizza, a quello che interpreta. Allora, io ho cercato nel mio linguaggio sociologico e per quello che è il mio orientamento anche nel mio rapporto, anche di esperienza quotidiana, di rapporto con i teologi, ho tentato di sintetizzare nel titolo un po' la mia ipotesi. Perché questo misurarsi con il futuro è una questione altamente problematica, molto difficile, su cui però bisogna che per alcune cose ci misuriamo. Allora, di fronte a un futuro improbabile, di fronte a un futuro che forse proprio dall'eccesso di alternative non è più così visibile, non è più così dotabile di forme, io credo che di fronte a questo problema costituito dal futuro sia importante attrezzarsi al passaggio al futuro. Per cui più che controllare il futuro bisogna attrezzarsi al cammino che facciamo verso il futuro. E in questi termini, anche se la parola è entrata nel lessico comune, io credo che sia necessario invece fare un minimo di sottolineatura di che cosa può voler dire valorizzare la complessità che oggi viviamo e saper navigare all'interno di questa complessità in un cammino che non può che fare, che avere un progetto controinerziale, controfattuale di comunicazione e relazione. Un cammino che, riprendendo una parola che è tipicamente ecclesiologica, un cammino di sinodalità, di appunto un cammino comune, e che ritengo sia un lemma che non va bene solo per la Chiesa, ma è un lemma che va bene anche per la società o per le società. Allora, la seconda cosa che volevo dire come premessa è che proprio perché il cammino è difficile, anche questa riflessione è difficile, io vorrei sforzarmi di essere più che erudito, di sforzarmi di fare un po' di sapienza, di dare un contributo di saggezza, cioè di cercare il senso che c'è all'interno degli interrogativi che ci poniamo. Anche se dopo giustamente bisogna fare riferimento a studi specifici o a contributi specifici. Un'ulteriore premessa però non posso non fare, proprio e ciascuno di noi che parla deve farlo, sul rapporto tra sociologi e teologi. E io tengo a ribadire che il discorso è difficile oggi proprio perché, anche perché non esiste una ricerca e una teologia come disciplina laica nelle università, ma esiste sempre e solo come disciplina confessionale all'interno di università separate, per cui sicuramente c'è un'enorme espansione della teologia cattolica, c'è un'eccellente facoltà teologica valdese, ci sono sicuramente delle scuole ebraiche importanti, ogni altra grande religione diciamo costruisce e forma i propri intellettuali, ci sono anche dei filosofi, prima parlando con il professor Ardigò, Sartori citava Massimo Cacciari, ci sono dei filosofi che si misurano con problemi teologici, che fanno teologia, non la insegnano, però in genere non sono interni a un dibattito e non si usa creare dibattiti in questo modo. Allora io credo che questo sia una condizione, questa inesistenza di situazioni, diciamo, di teologia laica, questo sia un problema che non possiamo non notare. Perché? Perché sicuramente poi l'università non è che sia un luogo ideale, sicuramente l'università è un luogo in cui si cerca di garantire le possibilità di riflessione e di confronto e di dialogo. A partire e anche non dando per scontato, ecco, le confessioni e le credenze di appartenenza. Secondo discorso, e anche perché è stato richiamato in un intervento, era già venuto fuori nel seminario di marzo, io credo che sia molto delicato questo discorso del rapporto tra sociologia e teologia quando si chiede al sociologo di dichiararsi cattolico. Perché sicuramente anche la volta scorsa abbiamo tutti detto, Pierpaolo Donati l'ha ripreso anche nella sua relazione, c'è un problema di precomprensione che ciascuno ha, che ciascuno deve giocare, ma la precomprensione non è la legittimazione della tautologia, non è la legittimazione dell'autoconferma. La precomprensione è una fase di un processo ermeneutico, appunto, che bisogna mettere alla prova, che può facilitare ma anche impedire. Per questo ogni interprete e ogni conoscitore deve confrontarsi anche con gli altri, anche con chi non ha le stesse precomprensioni. E io credo che questo sia un problema molto importante, perché io sono convinto che la teologia cattolica non riceve buoni contributi solo dai sociologi cattolici, ma anche da sociologi di qualsiasi altra, di qualsiasi altro orientamento. Anche perché i teologi cattolici, secondo me, non dovrebbero parlare solo ai cattolici, dovrebbero parlare anche con chi il messaggio non l'ha ancora ricevuto, o con chi il messaggio in altre condizioni l'ha rifiutato. E allora in questo senso forse i teologi cattolici farebbe bene ascoltare i sociologi non cattolici. Ma questo lo dico non dando per scontato questo discorso, però sicuramente rifiutando che ci debba essere una omologazione. Una buona sociologia della religione cattolica la possono fare solo i sociologi credenti. Tutti devono mettere in gioco le proprie precomprensioni. Questo credo sia un elemento conoscitivo e metodologico molto importante, molto delicato, che dà le condizioni migliori per un dialogo serio. C'è un dialogo, un confronto, un ascolto, non semplicemente un'autoverifica. Allora, posto queste premesse, che ritengo molto importanti, allora credo che, scusate, ulteriore passo, io credo che la sociologia e la teologia abbiano molte cose da dirsi, proprio perché la sociologia è attenta alla storia dei popoli, delle società, alla storia degli uomini, ai loro prodotti, ai loro costrutti, e quindi vede nella loro storia dei tipi, delle immagini sociologiche, un aiuto alla propria immaginazione sociologica che può essere molto interessante. Nella relazione di Donati fa ricorso, per esempio, allo schema della Trinità, cercando di argomentare perché secondo lui è uno schema che può generare una serie di cose. Io potrei aggiungere che la sociologia, faccio invece un esempio già molto noto dalla scienza della politica o dalla filosofia della politica, Michael Walzer ha scritto un bellissimo libro, Esodo e Rivoluzione, prendendo dal tipo dell'esodo, no, della storia ebraica, un modello di cammino, un modello di percorso, per esempio sulla liberazione. Io credo che, ragionando in termini di non solo di teologia cattolica, ma di altre teologie, noi potremmo trovare altre immagini generative, che per esempio hanno sempre a che fare con quella tematica della relazione su cui ha ragionato a fondo Donati, o quella tematica, io preferisco dire, dei soggetti in relazione, che è al cuore della sociologia. Basti pensare a teologie o spiritualità orientali, il tema della compassione, che è immediatamente relazionale, e anzi carico di tutta una serie di elementi, di spunti per quanto riguarda il rapporto con l'altro. Allora, veniamo al discorso sul futuro. Anche qui io credo che bisogna essere molto chiari. La sociologia, i sociologi non parlano volentieri di futuro, spesso mutuano da altri studiosi studi sul futuro, studiosi che possono maneggiare molto meglio determinazioni o fatti quantitativi. Il discorso dei Meadows, i due Meadows Renders, il vecchio gruppo dell'MIT che ha scritto il primo libro sui limiti dello sviluppo, adesso ha scritto Oltre i limiti dello sviluppo, lavorano prevalentemente su dati economici e dati demografici, che sono quelli che nel lungo periodo possono dare più controllo, diciamo, delle situazioni. Per esempio, questo tipo di approccio al futuro, che direi non solo i sociologi, ma tutti quanti hanno dovuto considerare come importante, appunto ha delineato una serie di prospettive, estrapolando dalla storia degli eventi economici e demografici, ne hanno tratto delle induzioni e hanno posto o riproposto un problema che avevano già posto negli anni 70, il problema dei limiti. E difatti il titolo Oltre i limiti dello sviluppo segnala un problema importante. Intanto prende atto della differenza di significato del concetto di crescita dal concetto di sviluppo. Crescita, che è un'espansione quantitativa di un certo tipo di fenomeno, e sviluppo invece che implica anche una trasformazione qualitativa. Ecco, dai loro studi la loro insistenza è questa. Bisogna in qualche modo, non si può più accettare la crescita in quanto tale. Bisogna controllare i limiti della crescita, bisogna ragionare in termini di quello che loro chiamano sviluppo sostenibile. In quello che loro chiamano un andare non verso il più, ma verso l'abbastanza. Io vorrei fermarmi un momentino, non in termini di minuti, ma in termini di sottolineatura, proprio su questa idea di abbastanza. È un problema che viene da lontano. Quando Herbert Simon ha teorizzato una certa idea di razionalità limitata, ha anche teorizzato, in critica ai modelli economici dominanti, l'idea dell'ottimizzazione, l'idea dell'ottimo, e ha invece sottolineato l'importanza del soddisfacente e ha tentato di dimostrare in termini di analisi delle scelte, di analisi delle decisioni, che ciò che è rilevante è il problema del soddisfacimento sufficiente, non è il problema del raggiungimento dell'ottimo. Gli studiosi dell'MIT ragionano ancora in termini di questo abbastanza. Io credo che in questa problematica del non più ma abbastanza ci sia uno dei problemi grossi di adesso, perché non pone più semplicemente il problema del limite, ma pone il problema di come gestire diversamente le risorse che si hanno in termini di qualità, in termini di senso, in termini di condivisione, in termini di distribuzione. Per cui non è solo un annuncio che le risorse stanno finendo, o che fra 100 anni, se la popolazione cresce con un certo tipo di crescita, non ci sarà da mangiare per tutti. Non è quindi solo un problema di limiti, ma è proprio un problema di spostamento di logica, di modo di affrontare le questioni. E difatti quello che mi interessa sottolineare, per esempio, di un contributo come questo di Meadows e altri, è quello: bisogna assolutamente spostare il modo di affrontare le questioni, spostarle attraverso un diverso modo di costruire i rapporti, ma anche di costruire le mete, di costruire le aspettative, di costruire gli strumenti. Certo però che come correlato, come corollario, qui per me viene fuori uno dei problemi classici che oggi anche la Chiesa, attraverso i suoi vertici, per esempio il Papa, sta affrontando: il discorso della crescita demografica. E io non mi sentivo di evitare di sollevare questo problema, cioè che tra gli studiosi che studiano il futuro questo problema continua a emergere con forza, rispetto al quale ci sono le proposte più diverse. Mentre invece, secondo me, si tratta anche qui di rifare i conti con questa materia, di non considerarla già risolta. Io credo neanche da un punto di vista della teologia cattolica, non perché sia contrario a quanto dice il Papa, ma dico perché è un problema talmente smisurato che passa attraverso anche una maturazione delle culture, di tutte le culture, di tutti i popoli, una maturazione della nostra cultura italiana o veneta, che ha il più basso tasso di natalità del mondo, e la cultura delle popolazioni che hanno invece i tassi più alti. Per cui c'è una riconsiderazione davvero universale e allo stesso tempo differente di questo problema demografico. E il problema demografico non so se sia solo un problema etico, di etica della procreazione, ma credo invece sia un problema culturale, un problema teologico, proprio sul significato dell'uomo e della donna, ma anche sul significato del popolo, di una identità collettiva che attraverso il generare trascende la propria identità e la tramanda e ne dà un segno di continuità. Questo discorso però, io vado sempre rapidissimamente, questo discorso di analisi del futuro per grandi aggregati è interessante, ma come potrei dire, in qualche modo anonimo. Il problema per me, che è molto più interessante, ma proprio per questo più anche impredicibile, e in cui forse i sociologi hanno qualche cosa di più da dire, se non altro come conoscenza dell'oggi, è che all'interno di queste grandi trasformazioni di aggregato della produzione economica, dei consumi, dell'utilizzazione delle energie, degli inquinamenti oppure dell'evoluzione demografica, quello di cui tutti noi facciamo esperienza e a cui forse i sociologi sono più attenti è la presenza all'interno di questi fenomeni di aggregato, invece di soggetti collettivi sempre più attivi, sempre più presenti, questi popoli, queste identità collettive, spesso identificate anche da una religione, sono sempre più attenti a manifestarsi e a manifestare una propria domanda, una propria volontà di identificazione, di spazio e di autonomia. E io credo che questo problema dell'insorgere di soggetti collettivi sia all'interno di queste trasformazioni di aggregato ampie che in qualche modo si possono misurare, siano invece gli elementi di creatività e di improbabilità del nostro futuro. Ormai non abbiamo più grandi sistemi di regolazione, ma abbiamo un sistema di convivenza in cui dei microsoggetti etnici possono instaurare dei meccanismi, per esempio conflittuali, molto importanti, dalle conseguenze ecumeniche, dalle conseguenze mondiali. Ora, la presenza di queste identità, forti sul piano collettivo, secondo me è un elemento estremamente interessante e estremamente ambivalente. E dico ambivalente perché nello stesso momento in cui fa scatenare moltissime guerre e moltissimi fatti distruttivi, ma anche spinge per altro verso magari le stesse comunità o altre comunità e altre identità a trovare dei meccanismi sovrasistemici di regolazione e di connessione. Per cui da un lato ci sono delle guerre micidiali e dall'altro delle richieste sempre più pressanti, per esempio che le Nazioni Unite diventino, scusate la parola, in qualche misura una polizia internazionale. Allora vedete che questo crescere di identità, che fanno cascare muri, ne alzano degli altri, creano spazi nuovi, procurano dei genocidi, portano, spingono anche a meccanismi di connessione, di coregolazione molto importanti. Un ulteriore elemento che è collegato a questo crescere dell'identità, secondo me, è poi a livello individuale. cioè che la difficoltà, direi, di precisare la fisionomia del futuro è proprio basata dal fatto che ormai, almeno in Occidente, questo discorso della forza dell'individuo, della centralità, dell'autonomia dell'individuo, diventa un elemento sempre più importante. Per cui diventa un elemento sempre più importante la propria ricerca individuale di soluzione dei problemi. Allora, per quanto riguarda la religione, già da molti anni si parla di una, come si può dire, di una religiosità fai da te, in cui ciascuno cerca di aggiustare, diciamo, il proprio mosaico di esperienza religiosa. Però anche sappiamo di vie, diciamo, non religiose, nel senso teistico del termine, che fanno crescere anche esperienze sincretistiche molto interessanti per le, come potrei dire, le contaminazioni culturali che oggi avvengono nell'esperienza individuale. Però un elemento, secondo me, che va sottolineato a livello dell'individuo, di fronte a un futuro meno predicibile e quindi di fronte a un futuro più incerto, c'è anche il problema dell'incertezza, di come gestire l'incertezza, di come in qualche modo salvarsi dalle delusioni o dalle ferite provocate dall'incertezza. Ed ecco allora tutta una serie di ricerche per allontanare, diciamo, la sofferenza di questa incertezza, o per fare come se questa incertezza non ci fosse. Penso per esempio alla quella semplicissima cosa che i sociologi della famiglia ormai cominciano a analizzare sempre più spesso, il fatto che i ragazzi stiano sempre più a lungo in famiglia, che può sembrare una cosa, vabbè, accade, e invece secondo me ha delle grosse implicazioni in termini di sviluppo della personalità e anche di identificazione sociale dei diversi individui. Non parliamo poi di quei meccanismi di autorassicurazione che utilizzano droghe o altri strumenti per tacitare appunto queste insicurezze. Allora, se questo discorso sul futuro, diciamo, è un discorso che può essere disegnato in qualche modo a livello di aggregato, se però diventa difficilmente prevedibile perché vi è questa grossa risorsa, questo grosso fattore delle individualità collettive, che può segnarne una ambivalenza, d'altro lato crescono anche le individualità e crescono, e queste individualità hanno a disposizione anche strumenti sempre nuovi. Prima il professor Ardigò faceva riferimento alla realtà virtuale, a certi modi di utilizzare o di pensare di utilizzare la realtà virtuale come espansione dell'esperienza individuale. Ricordo che è uscito il libro di Elémir Zola su Uscite dal mondo, no? Dove egli collega un certo modo appunto di utilizzazione della realtà virtuale per, come potrei dire, come pensando a un titolo di un altro suo libro, come una nuova manifestazione delle potenze dell'anima, cioè di cercare nuove strade, no? Di espressione, nuove strade di costruzione di mondi possibili, insomma. Certo che legato a questo discorso dell'individuo, della valorizzazione dell'identità dei popoli e dell'identità degli individui, quello che sta crescendo indubbiamente appunto è la autovalorizzazione, cioè il fatto che le identità collettive, le identità individuali hanno in qualche modo imparato o stanno imparando non tanto ad attendere dall'alto un qualche stimolo di crescita, ma proprio a autovalorizzarsi, ad autoaiutarsi, ad autovalorizzarsi. Questo tipo di evoluzione in cui le individualità sono molto presenti e inevitabilmente presentano allora una situazione in cui possiamo parlare di complessità. Complessità che vuol dire frammentazione, vuol dire grande articolazione di sottosistemi sociali, vuol dire anche alti livelli di contraddittorietà tra mete e mezzi utilizzati, vuol dire una situazione di grandi possibilità, ma anche di grande difficoltà di decifrazione, di grande difficoltà di controllo della complessità. E io credo che allora sia proprio in questa situazione di futuro difficile da leggere, ma estremamente attivo nei soggetti che ne sono le mani, ne sono le teste, io credo che sia importante allora avere delle idee su come che cosa sia questa complessità e come navigare in questa complessità, perché indubbiamente non è più possibile questo cammino con vecchi sistemi in cui ordine è il contrario del disordine, in cui di fronte a un ordine costituito il disordine va espulso. Ma nemmeno è possibile una logica della pura tolleranza, che è la logica sperimentata in fondo in questi ultimi decenni, semplicemente della convivenza il meno bellicosa possibile tra sottosistemi anche assolutamente incompatibili, che arriva fino al pensiero debole, cioè all'accettare qualsiasi cosa. Io credo invece che all'interno della complessità sia necessario e sia possibile camminare, appunto, precisando almeno due o tre cose. Precisando due o tre cose per dare l'idea che dobbiamo camminare verso quella che Morin chiama, ma molti altri, la unitas multiplex. E cito, Morin ha scritto moltissime cose, io faccio riferimento adesso immediatamente a un piccolo libro che raccoglie una serie di conferenze appunto sul pensiero complesso. Morin sottolinea tre cose che nella brevità mi pare utile sottolineare. Che nella complessità l'ordine e il disordine in molti casi devono dialogare, in cui cioè una identità nuova che può nascere all'interno di un certo tipo di ordine non è detto che sia una identità da espungere, da scomunicare, ma probabilmente è un'identità da tener presente, da tener di fronte, perché nella propria differenza segnala una trasformazione, dà dei messaggi da cui si può imparare qualcosa. Allora questo primo elemento, ordine e disordine, per cui il disordine in qualche modo è una trasformazione, è una differenza che mette in questione l'ordine, ma allo stesso tempo vive anche, convive in tensione con l'ordine, mi pare che sia un elemento estremamente importante, perché invece nella tradizione, specialmente religiosa, l'ordine non ammette il disordine, l'armonia non ammette il conflitto. Chi ha la religione vera non ammette una religione non vera, i detti docet. Infatti, tra parentesi, stamattina io mi chiedevo quando ascoltavo, sintetizzo, quando ascoltavo Dianice che verso la fine della sua relazione diceva ormai siamo in situazione plurietnica e plurireligiosa, io mi chiedevo, ma probabilmente invece anche la teologia deve dire qualcosa, la teologia teoretica, su questa esperienza plurireligiosa. Perché certo la teologia di una certa confessione ragiona sul nome che conosce di Dio, ma in un ambiente in cui ci sono altri nomi di Dio, con altri che dicono Dio. E io credo che questo non sia irrilevante. Allora, quindi questo discorso ordine e disordine, in cui potrei dire anche, allora, la teologia non deve temere che la sociologia sia un disordine, o certi sociologi che la teologia sia un disordine, ma in qualche modo l'una con l'altra dialogano in tensione reciproca. Secondo discorso, un'idea se volete più sociologica, che la complessità implica un'idea di dinamismo organizzativo, di ricorsività organizzativa, noi potremmo dire anche di riflessività organizzativa, per cui non c'è solo un andamento lineare causa-effetto, ma a sua volta l'effetto produce una causa, e è causa di qualche cos'altro, per cui c'è una costruzione continua dell'organizzazione umana. E questo, per esempio, secondo me, è un elemento molto importante laddove c'è un'idea invece abbastanza fissa da un punto di vista istituzionale e organizzativo. Perché invece l'organizzazione sociale si costruisce, non ha un solo movimento direzionale. Ultima cosa, quello che lui chiama il principio ologrammatico, cioè il fatto che bisogna passare da un'idea olistica in cui vale solo il tutto, oppure da un'idea riduttiva in cui ogni cosa è composta da parti in gerarchia, in cui ciascuno fa appunto la sua parte. Bisogna passare a un'idea che mi chiamo ologrammatica, in cui la parte in qualche modo contiene anche il tutto, contiene la logica del tutto. E questo, secondo me, è un'idea molto importante quando penso in termini, se volete, realistici, anche appunto a quel problema che è stato posto in maniera piuttosto scioccante da Dianice, al discorso delle piccole comunità religiose o dall'esperienza religiosa del singolo, che in qualche modo contiene, diciamo, tutto l'ologramma, il nologramma, il biogramma spirituale, diciamo, del dato religioso. Io credo che questi elementi, appunto, di questo ordine che dialoga con il disordine, di questa ricorsività organizzativa e di questo principio in qualche modo ologrammatico, siano importanti anche proprio in termini di vita delle religioni e delle chiese, proprio perché questi discorsi si debbono fare in termini di, non solo all'interno della Chiesa Cattolica, ma tra le chiese cristiane e tra le religioni. Vado rapidamente in avanti. Questo discorso della complessità però va fatto in qualche modo, allora, attivando dei processi e appunto collegandomi anche con i discorsi fatti ieri, in cui Donati sottolineava l'elemento dinamico e generativo della relazione. Io vorrei aggiungere complementarmente, diciamo, che per navigare nella complessità e averne un progetto di valorizzazione bisogna avere un progetto di comunicazione-relazione. E in questo senso io con grande semplicità utilizzo il modello pragmatico, diciamo, della scuola di Palo Alto, che trovo estremamente semplice ed efficace nello stesso tempo. E perché è proprio la scuola di Palo Alto che ha legato la comunicazione alla relazione. Mi veniva in mente al seminario su verità, comunicazione e fede, che è stato fatto a Studi a Patavina e già pubblicato, dove i teologi si misuravano sul problema, diciamo, evidenza della fede, interpretazione della fede, eccetera, io come sociologo non potevo non sentirmi di collegare la verità alla comunicazione della verità. E che attivando l'idea di comunicazione della verità, perché la verità è un messaggio, non è solo un'idea, la verità come messaggio, inevitabilmente mi viene in gioco la relazione che c'è tra chi dice la verità e chi l'ascolta la verità, e poi la ridice in una ricorsività sociale. E non è indifferente quale relazione c'è, perché può essere una relazione generativa, può essere anche una relazione di occultamento, di chiusura, di alienazione. E allora questo discorso di un progetto di valorizzazione della complessità, di questo camminare con la complessità per una unitas multiplex, ecco, bisogna avere un progetto di comunicazione e relazione. E qui finisco semplicemente proprio prendendo spunto dalle riflessioni di Vaclavi. Perché mi pare che dicano anche cose che si avvicinano, per esempio, alle riflessioni che faceva il professor Ardigo. Perché una prima cosa, la cosa che può far sorridere, quell'intuizione formidabile di Vaclavi, che non possiamo non comunicare. Per cui, che sottolinea questo psicologo, è contro l'impersonalità dei rapporti. Ecco, io credo che uno dei temi forti di un discorso su un progetto di comunicazione e relazione che dobbiamo fare è proprio della lotta contro l'impersonalità. Credo ci sia abbastanza da dire anche all'interno della Chiesa Cattolica. Un discorso sull'impersonalità perché vuol dire valorizzare le persone, vuol dire valorizzare i talenti, vuol dire valorizzare anche, e qui è il riferimento ai discorsi sull'empatia del professor Ardigò, quella che Vaclavi chiama l'analogicità della comunicazione rispetto ai numeri. Vaclavi utilizza il concetto di numero per dire in tutte le descrizioni, no? le spiegazioni razionali delle cose, e invece parla di analogia quando invece mette in gioco il comportamento non verbale, le implicazioni emotive, metarazionali o subrazionali, eccetera eccetera. Ecco, io credo che questo discorso contro l'impersonalità sia proprio anche un richiamo all'analogicità della comunicazione, al fatto che le persone devono essere chiamate non solo con la loro ragione, ma con ragione e affettività in tutta la loro dimensione. E infine, appunto, che questo discorso di comunicazione e relazione deve essere fatto, ma questo lo ricordava anche Pierpaolo e anche in molte altre sedi, in una dinamica di reciprocità. Reciprocità che non vuol dire solo, come potrei dire, solidarietà nel senso, reciprocità è una cosa molto densa, che può avere molti percorsi, può avere molte punteggiature. Ecco, io credo che un progetto, e finisco appunto, un progetto di comunicazione e relazione sia necessario per un cammino che ho chiamato sinodale, cioè un camminare insieme, perché questo insieme è importante. E qui voglio finire con proprio le cinque parole dei colleghi, dei professori dell'MIT, quando dicono che per loro, per andare verso un futuro sostenibile, è necessaria l'immaginazione, è necessaria la veridicità, perché altrimenti si nascondono le situazioni, ma è necessaria la connessione, il collegamento, è necessario imparare dagli altri, e loro dicevano anche è necessario amare, cioè è necessario mettersi dal punto di vista degli altri, guardare gli altri, prendersi responsabilità anche per gli altri. Allora io ecco che in questo discorso sociologi e teologi molte cose hanno da dirsi, non solo in chiave pastorale, di fronte a un futuro difficilmente leggibile e con soggetti sempre più forti, non possono non scrutare dentro questa complessità, una complessità in cui bisogna imparare a navigare, che bisogna imparare a valorizzare e che non si può valorizzare se non attraverso un progetto di comunicazione e relazione. Così ho fatto anche la sintesi. Bene, grazie. Ringraziamo il professor De Sandre per questa problematica così scavata e che ci dispone a, soprattutto a cambiare mentalità. Mi pare che ci sia un collegamento con l'insistenza di Donati. Più che avere ricette tecniche, bisogna di fronte al futuro predisporsi con un cambiamento di mentalità. Il